Capitolo 142esimo Deianira. Trascorsi 4 anni a Feneo, Eracle decise di lasciare il Peloponneso. A capo di un potente esercito Arcade, egli salpò per Calidone in Etolia, dove stabilì la sua residenza. Poiché non aveva moglie né figli legittimi, corteggiò Deianira, la supposta figlia di Eneo, mantenendo così la promessa fatta all'ombra del fratello di lei, Meleagro. Ma Deianira era in realtà figlia del dio Dioniso e della moglie di Eneo, Altea, come fu dimostrato quando Meleagro morì e Artemide trasformò le sue sorelle gementi in galline faraone. In quella occasione, infatti, Dioniso indusse Artemide a lasciare sembianze umane a Deianira e a sua sorella Gorga. Molti pretendenti si presentarono al palazzo di Eneo in Pleurone, chiedendo la mano della bella Deianira. Erano abili aurighi ed esperti nell'arte della guerra, ma tutti si allontanarono quando seppero di dover rivaleggiare con Eracle e con il dio del fiume Acheloo. Si sa che l'immortale Acheloo si presenta in 3 forme, come toro, come serpente dalla pelle macchiettata e come uomo dalla testa di toro. Rivoli d'acqua scorrono continuamente dalla sua folta barba. Deianira avrebbe preferito morire anziché sposarlo. Eracle, quando Eneo lo invitò a esporre la sua richiesta, si vantò di poter dare a Deianira Zeus come suocero e di farla inoltre risplendere della gloria riflessa delle sue 12 fatiche. Achelo, ora in forma di uomo con la testa di toro, sogghignò a quelle parole, obiettando che egli era persona famosa, padre di tutti i fiumi greci e non uno straniero vagabondo come Eracle. L'oracolo di Dodona aveva invitato tutti coloro che vi si recavano ad offrirgli sacrifici. Poi provocò Eracle dicendo: «I casi sono 2, o tu non sei figlio di Zeus, oppure tua madre è adultera». Eracle corrugò la fronte. «Preferisco combattere anziché discutere», disse, «e non ammetto che si insulti mia madre». Achelo allora si liberò della sua veste verde e lottò con Eracle finché si trovò steso a terra. Allora subito si trasformò in serpente e guizzò via. «Ho strangolato serpenti quando ero ancora in culla», rise Eracle, e fece un balzo per stringere il serpente alla gola. Achelo si trasformò in toro e lo caricò. Eracle lo schivò abilmente e, stringendolo per le corna, lo scaraventò di nuovo a terra con tanta forza che il corno destro si staccò netto dalla fronte. Achelo si ritirò dalla lotta, umiliato e vergognoso, e nascose la sua mutilazione sotto una corona di rami di salice. Alcuni dicono che Eracle restituì il corno ad Achelo e ne ebbe in cambio un corno della capra Amaltea, e altri che il corno di Achelo fu trasformato dalle Naiadi nel corno di Amaltea e che Eracle lo offrì a Eneo come dono nuziale. Altri ancora che nel corso della 12ª fatica Eracle portò nel Tartaro quel corno già colmo dei dorati frutti delle Esperidi e, chiamato Cornucopia per donarlo a Pluto, un aiutante di Tiche. Dopo le sue nozze con Deianira, Eracle marciò alla testa dei Calidoni contro la città tesprozia di Efira, più tardi detta Cichiro, dove vinse e uccise re Fileo. Fra i prigionieri vi era la figlia di Fileo, Astioca, che ebbe da Eracle un figlio, Tlepolemo, benché altri dicano che Tlepolemo era figlio di Astidamia, a sua volta figlia di Amintore, che Eracle rapì da Efira in Elea, una città famosa per i suoi veleni. Per consiglio di un oracolo, Eracle mandò poi un messaggio all'amico suo Tespio. 7 dei tuoi figli rimangono con te a Tespia, mandane altri 3 a Tebe e ordina agli altri 40 di colonizzare l'isola di Sardegna. Tespio obbedì. I discendenti di coloro che si recarono a Tebe vi sono ancora oggi onorati, e i discendenti di coloro che rimasero a Tespia, i cosiddetti Demuchi, governarono quella città fino a epoca recente. L'esercito guidato in Sardegna da Iolao comprendeva contingenti di Tespi e di Ateniesi, e quella fu la prima spedizione coloniale greca in cui i capi venivano da un ceppo diverso dalla gente comune. Sconfitti i Sardi in battaglia, Iolao divise l'isola in province, piantò alberi d'olivo e rese il suolo così fertile che da allora i cartaginesi furono disposti ad affrontare grandi rischi e fatiche pur di assicurarsi il possesso della Sardegna. Iolao fondò la città di Olbia e incoraggiò gli Ateniesi a fondare la città di Ogrile. Col consenso dei figli di Tespio, che lo consideravano un loro secondo padre, chiamò i coloni dal suo nome, Iolari, ed essi ancora sacrificano a padre Iolao così come i persiani sacrificano a padre Ciro. Si disse che Iolao in seguito ritornò in Grecia passando dalla Sicilia, dove alcuni dei suoi seguaci si stabilirono e lo onorarono con sacrifici eroici, ma secondo i tebani, che dovrebbero essere ben informati, nessuno dei coloni ritornò più in patria. A una festa che si celebrò 3 giorni dopo, Eracle si infuriò con un giovane parente di Eneo, chiamato in vari modi Eunomo, Eurinomo, Ennomo, oppure Archia o Cheriade, figlio di Architele, che ebbe l'ordine di versare acqua sulle mani di Eracle e maldestramente gliela schizzò sulle gambe. Eracle tirò le orecchie del ragazzo con più energia di quanto intendesse e lo uccise. Benché Architele lo avesse perdonato per questo incidente, Eracle decise di espiare la colpa con l'esilio secondo l'usanza e se ne andò accompagnato da Deianira e dal loro figlio Illo fino a Trachine, patria di Ceice, nipote di Anfitrione. Un incidente analogo gli era capitato a Fliunte, una città che sorge a oriente dell'Arcadia, quando Eracle tornava dal giardino delle Esperidi. Poiché non gli piaceva il vino che gli avevano posto dinanzi, Eracle colpicciato il coppiere con un dito soltanto, ma questo bastò ad ucciderlo. Un sacello in ricordo di Ciato è stato costruito presso il tempio di Apollo a Fliunte. Alcuni dicono che Eracle combatté contro Achelo prima dell'assassinio di Ifito, che lo costrinse poi ad andare in esilio. In ogni caso, egli raggiunse con Deianira il fiume Eveno, allora in piena, dove il centauro Nesso, dichiarandosi autorizzato dagli dei a trasportare gli uomini sulla riva opposta, si offrì, dietro modesto compenso, di caricarsi Deianira in groppa mentre Eracle avrebbe nuotato. Eracle accettò, pagò il compenso richiesto, gettò la clava e l'arco al di là del fiume e si tuffò nella corrente. Nesso, tuttavia, invece di mantenere la promessa, galoppò nella direzione opposta con Deianira tra le braccia. Poi la gettò a terra e cercò di farle violenza. Deianira gridò invocando aiuto ed Eracle, recuperato l'arco, prese accuratamente la mira e trapassò il petto di Nesso con una freccia scagliata da mezzo miglio di distanza. Estratta la freccia, Nesso disse a Deianira: «Se tu mescolerai il seme che ho sparso al suolo con il sangue sgorgato dalla mia ferita e vi aggiungerai olio d'oliva, ungendo in segreto con questa mistura la camicia di Eracle, non avrai più da lagnarti per la sua infedeltà». Deianira in gran fretta raccolse gli ingredienti in un vaso, che suggellò e nascose tra le pieghe della veste senza dir parola a Eracle. Secondo un'altra versione, Nesso offrì a Deianira della lana imbevuta del proprio sangue e le disse di tesserla per farne una camicia a Eracle. E secondo una terza versione, le offrì la propria camicia insanguinata, dicendola dotata di magici poteri amorosi, e poi fuggì presso una vicina tribù di Locresi, dove morì per la ferita ricevuta. Ma il suo corpo imputridì senza sepoltura ai piedi del monte Tafiasso, appestando l'intera zona con il suo fetore. Ed ecco perché quei Locresi sono detti Ozoli. La sorgente presso la quale Nesso morì esala ancora cattivo odore e contiene grumi di sangue. Da Deianira Eracle aveva già avuto Illo, Ctesippo, Gleno e Odite, e inoltre la sua unica figlia Macaria. La storia delle sorelle di Meleagro è qui narrata per giustificare il culto della faraona in onore di Artemide all'Ero. L'amore di Deianira per la guerra rivela in lei una personificazione della pre-olimpica Atena, dea delle battaglie, i cui matrimoni in diverse località riguardano in particolar modo questa parte della leggenda di Eracle. La lotta di Eracle con Achelo, al pari della lotta di Teseo con il Minotauro, deve essere interpretata come una parte del rituale delle nozze sacre. Il toro e il serpente sono i simboli dell'anno che nasce e dell'anno che muore. Il toro, che è il padre del serpente, e il serpente, che è figlio del toro, e ambedue sono vinti e dominati dal re sacro. Un corno di toro, considerato sin dai tempi più antichi come sede di fertilità, consacrava al trono il candidato che se ne era impossessato, sia lottando con un toro vero e proprio, sia lottando contro un avversario mascherato da toro. L'eroe babilonese Enkidu, il gemello mortale di Gilgamesh devoto alla regina del cielo, afferrò il toro del cielo per le corna e lo uccise con la sua spada. La conquista di una cornucopia era una delle prove nuziali imposte all'eroe celtico Peredur nel Mabinogion. In Creta il culto del toro era succeduto a quello della capra selvatica, il cui corno era egualmente potente. ma pare che la raffigurazione di questa lotta rituale fosse interpretata dai greci come la lotta di Eracle con il fiume Acheloo, e cioè il prosciugamento del Paracheloitide, un tratto di terra formato dal limo dell'Acheloo e che piano piano aveva unito le isole Echinadi con il continente. A Eracle fu spesso attribuito il merito di imprese di bonifica di questo genere. È improbabile che l'oracolo di Dodona avesse ordinato ai suoi visitatori di sacrificare ad Acheloo. I sacrifici erano senza dubbio destinati ad Acheloide, la dea luna che allontana il dolore. E un uomo e Ciato furono probabilmente fanciulli vittime, surrogati del re sacro al termine del suo regno. Nesso, che tenta di violentare Deianira, ricorda i disordini verificatisi durante le nozze di Pirito, quando Teseo, l'Eracle ateniese, intervenne per salvare Ippodamia dall'assalto del centauro Eurizione. Poiché i centauri erano in origine descritti come uomini capre, la raffigurazione da cui fu tratta questa leggenda mostrava probabilmente la regina nell'atto di cavalcare sulla schiena del re camuffato da capra, come accadeva nella festa di Calen di Maggio nell'Europa settentrionale, prima delle nozze sacre. Eurizione è l'arruffone, un personaggio tipico reso famoso dalle commedie di Aristofane e che compare ancora nelle feste nuziali della Grecia settentrionale. L'esempio mitico più antico dell'arruffone è lo stesso Enkidu. Egli interruppe le nozze sacre di Gilgamesh con la dea Erech e lo sfidò a duello. Un altro arruffone è Agenore, che cercò di sottrarre Andromeda a Perseo durante il banchetto di nozze. I lidi neolitici, che si erano stabiliti per i primi in Sardegna, riuscirono a sopravvivere rifugiandosi nelle zone montagnose. Gli emigranti che li seguirono, greci, cretesi, cartaginesi, romani ed ebrei, cercarono di sistemarsi stabilmente nei distretti costieri, ma furono sempre sconfitti dalla malaria. Soltanto in questi ultimi anni la malaria è stata vinta con mezzi moderni. Ozolio, puzzolente, un soprannome dato ai locresi stabilitisi presso Focide per distinguerli dai locresi di Opunzia e di Epizefiri, probabilmente si riferiva alla loro abitudine di indossare indumenti di pelle di capra non conciata che esalavano uno sgradevole fetore quando pioveva. Ma i locresi facevano derivare quel nome da Ozoi, sorso divino, per via dei primi vigneti piantati nel loro paese.